Italia in controluce. Eccoci in una nuova puntata di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 in diretta oggi sulla protesta in Val di Susa contro la Tava. In realtà tutto questo avviene in una giornata di fuoco, diciamo semi-rivoluzionaria, dove gli scontri continuano in varie città italiane, cioè a Milano, a Napoli, a Genova, Padova, e dove si continuano a bloccare stazioni, dove ci sono stati scontri anche molto duri con le forze di polizia nel giorno dello sciopero generale. E allora vi chiediamo innanzitutto se è giusta la protesta contro la TAV oppure i lavori dell'alta velocità devono proseguire. È successo che ieri un centinaio di no-TAV avevano bloccato la strada statale 24, qualcuno ha circondato un'auto della polizia stradale di Susa che doveva gestire il traffico di mezzi pesanti. I militanti con un bastone hanno sfondato il parabrezza della vettura, danneggiandola anche con lanci di pietre. Che cosa è accaduto? Sentiamo Sandro Plano, ex sindaco di Susa, nuovo presidente della nuova comunità montana di Val di Susa, Val Chisona, Val Sangone. Buongiorno Sandro Plano. Buongiorno. Allora vi ricordo la domanda: è giusta secondo voi la protesta contro la TAV oppure i lavori dell'alta velocità devono proseguire? 349 238 6666. Poi sentiamo anche la ricostruzione di Cristina Carpinelli, che è qui in studio con noi. Allora Plano, è tornata nuovamente questa protesta in Val di Susa o non se n'è mai andata? Non se n'è mai andata la protesta, ma credo che la ricostruzione del fatto, adesso io non ho elementi precisi, che ci sia stata una sorta di colluttazione con le forze dell'ordine è vero. Mi dicono che è seguita al fatto che un agente aveva estratto la pistola. Allora, se è così, e non sono in grado di assicurarlo, ma se è così, corriamo veramente dei grossi rischi per tre perforazioni, per tre sondaggi. Ma lei allora, che posizione ha? Che posizione ha sui lavori dell'alta velocità? Ma guarda, io è una vita che lo dico, non ero contrario. Alcuni anni fa sono diventato sempre più il contrario, perché vedo che il traffico fra Italia e Francia, complice ovviamente la crisi economica, sta diminuendo. La Corte dei Conti francesi, e tenga presente che la Francia è messa forse meglio di noi, ha un quarto della spesa a fronte del 60% del costo dell'opera. La Corte dei Conti ha sollevato dei pesantissimi dubbi sulla necessità di fare di quest'opera. Okay? Ecco, mi scusi Plano, quindi possiamo dire che un conto è la protesta, che può essere una protesta legittima, quale la sua e quella di altri sindaci, su un lavoro di su lavori, diciamo, di in questo caso dell'alta velocità o comunque di grandi infrastrutture, legittima in quanto poi uno può essere d'accordo o non d'accordo. È un conto invece sono però le violenze, perché no, ma guarda, io ho sempre detto che sono contrario e condanno ogni forma di violenza e ogni forma di illegalità, quindi su questo non ci piove. Però tenga presente che stiamo vivendo, e la nostra classe politica di tecnici e anche di politici di professione forse non se ne rende conto, e quello che sta succedendo in questi giorni, in questa mattina, credo che sia un sintomo preoccupante. Guardi, noi abbiamo l'Europa che ci nega i soldi per il terremoto e poi ce li ridà, abbiamo un'alluvione, abbiamo il problema degli esodati, il presidente della provincia di Torino dice non ci sono i soldi per il riscaldamento, noi siamo la valle che ha più buchi di un formaggio svizzero. Credo che a qualche punto qualche riflessione qualcuno deve farla. Ecco, le leggo alcuni sms che sono arrivati da quelli che dicono no TAV, terroristi da galera, a quelli che dicono che la TAV andrebbe bene se i treni dei pendolari non fossero cari da bestiame, poi pensino all'alta velocità. Un altro, Corrado da Como, ci dice che crede che ci voglia più concertazione una volta presa una decisione per la realizzazione di una qualsiasi opera. L'imposizione porta, secondo il nostro ascoltatore, alla violenza. C'è chi dice che possono smetterla di fare questi tipi di proteste, questi signori, chi parla e dà la colpa alla sinistra cosiddetta fallita, secondo lo stesso ascoltatore che continua a mandare una quarantina di messaggi, io poi ne leggerò soltanto due di questi. E magari mi piacerebbe, questo io lo dico anche perché io ho un nome e un cognome, e mi piacerebbe che le persone, come fanno spesso Piero per esempio, che scrive in questo momento: l'idea che mi sono fatto informandomi è che la TAV in Val di Susa sia un gigantesco magna magna, come sarebbe il ponte sullo Stretto, almeno firmate con il vostro nome. Un altro ascoltatore che non si firma invece dice: la TAV si deve fare punto e basta, assurdo continuare a sopportare questa protesta. Un altro dice: i cantieri TAV devono proseguire, basta con i facinerosi, no TAV, vogliamo il medioevo, dice un altro, meglio ricostruire l'Aquila, spendere 20 miliardi per andare più in fretta a Parigi. Un altro, Gianni da Crema: certo che deve andare avanti, per quei violenti non abbassiamo il capo. Insomma, decine e decine e decine di sms. Plano, può rispondere in poco tempo ai nostri ascoltatori? Sono tante le... Rispondo esattamente con quello che le ho detto prima. Abbiamo i soldi per fare l'assetto idrogeologico, abbiamo i soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, abbiamo i soldi per coprire tutte le spese che ci sono. Allora, quello che stiamo dicendo noi è: in questo momento, in questo modo molto particolare, non si tratta di vincere o perdere. Io come tanti altri non ne facciamo una battaglia di principio, però guarda, quando abbiamo dalla televisione un'immagine devastante degli sprechi e della classe politica, di dirigenti della pubblica amministrazione, soldi che spariscono da tutte le parti, allora veramente ci chiediamo perché tanto accanimento su un'opera in un momento in cui il traffico è in cala. Vi lascio così con questa sua domanda, Sandro Plano. Grazie al sindaco di Susa. Veniamo alla ricostruzione, qui con me Cristina Carpinelli, sentiamo il racconto. La Val Susa paura non ne ha, vi dirò tre carte, li scioglio e li seguo e picchi della, fai picchiare della gente così? No, non picchieremo nessuno. Ma siamo tutti, buonanotte. Allora, ci sciogliamo, allora sciogliete. No! Questa è una manifestazione non autorizzata. Vi dirò per tre volte di disperdervi, poi vi faremo allontanare. Dice così il capo della polizia che tenta di togliere i blocchi sull'autostrada A32. Quello che sentite è accaduto esattamente un anno fa ed è risuccesso nello stesso modo anche ieri sera. La protesta è contestuale alla partenza delle trivelle. 200, forse 300 persone tra valligiani, autonomi e anarchici hanno dato vita alla nuova dimostrazione contro il supertreno, sfociato nella tarda serata in un corteo e in un blocco dell'autostrada A32. Petardi lanciati contro le forze dell'ordine, un'auto della polizia stradale accerchiata e colpita con pietre e bastoni, un blindato dei carabinieri tenuto fermo per 20 minuti e poi distrutto. Siamo sempre sulla Torino-Bardonecchia, dove si è cominciato a perforare il terreno su cui i binari correranno. La protesta sta bloccando tutto, bisogna che lo Stato intervenga. Ci dice così il sindaco di Chiomonte Pinar, che tra l'altro ha ricevuto una lettera di minacce perché è a favore dell'alta velocità. È la stessa identica lettera che è stata mandata alla collega di Susa, la stessa identica lettera dove c'erano appunto queste frasi di minaccia e una polvere che non sappiamo cosa sia. È un problema di Stato, non un problema di contestazione, perché comunque ricordiamoci sempre che in uno stato normale non è che ci si spaventa per 300 persone che vanno a manifestare in quel modo. E se lo Stato facesse lo Stato, le posso garantire che oggi l'opera sarebbe avviata in modo definitivo. Oggi vediamo il problema grosso, non è non sono in ottavo, oramai, se lei si ricorda le manifestazioni dell'anno scorso, sono sensibilmente diminuiti, stanno, tra un po' bisognerà metterli in un museo come un qualche cosa che storicamente, archeologicamente è esistito, ma anche ieri sera 300 manifestanti con tutti i poliziotti che c'erano hanno chiuso le statali, hanno minato l'economia di una nazione. Gli italiani sono fatti così, tutto si può fare ma non a casa mia, a meno che non siano gli ospedali, viva la TAV, dice un altro, no TAV, terroristi da galera, un altro ascoltatore. Insomma, avete chiamato 349-238-6666. Noi torniamo domani, vi ricordo Facebook, cercateci, pagina gruppo, Twitter, Controluce @radio24.it.